Ava Gardner, Ava Gardner non fece la pubblicità per un detersivo, così come almeno fino ad ora Alberto Sordi non ha prestato il proprio volto e la propria parola a nessuna azienda di apparecchi acustici o il Cardinal Martini alla nota casa produttrice di liquori. Per lo più, infatti, si presume che il valore della cosiddetta testimonianza debba andare al di là del nome. Il principio per cui un'azienda cerca di legare il proprio prodotto ad un personaggio noto è ovvio. Si spera che la gamma delle connotazioni positive di cui il personaggio si è caricato, o meglio, è stato caricato, per una vita intera, si sposti questa gamma, rimanendo tale, sul prodotto in questione. In gioco c'è dunque la persona, le cose che fa, le cose che pensa, le cose che dice, e non il nome che, per quanto ne dicesse Plauto allorché suggeriva un rapporto fra nomen e omen, ovvero fra nome e augurio, non può venir caricato di eventi che nel momento in cui è stato scelto erano ben lontani dall'accadere. Tuttavia, qualcuno disposto a derogare da questo principio lo si trova sempre. Negli anni scorsi, allora, abbiamo potuto constatare come un popolare presentatore televisivo, già rappresentante del popolo nella Camera dei Deputati, se non vado errato, Gerry Scotti, abbia accettato di pubblicizzare una marca di riso che per mera coincidenza portava il suo nome, ignorando peraltro almeno due particolari. Il primo, il più trascurabile, era costituito dal fatto che nella storia uno Scotti aveva già legato il proprio nome ad una merce. Si trattava dell'inimitabile Cavaliere, del Cavaliere, il primo cavaliere a far ridere gli italiani prima di Berlusconi. Tino Scotti, che pubblicizzava una merce poco accostabile a qualsiasi tipo di alimento, perché non era nient'altro che un lassativo. Il secondo particolare era costituito dal fatto che pochi nomi sono tanto poco adatti ad un riso come il nome Scotti. Mi ricordò immediatamente la travagliata esistenza di quella ditta Bagnini che negli anni 70 confezionava impermeabili. C'era il forte rischio, insomma, non solo di radere al suolo l'autorevolezza del testimone per il semplice fatto che accettava di ridurre gli eventuali propri valori al proprio semplice nome, ma anche c'era il rischio di suggerire inavvertitamente connotazioni negative clandestine. Questo tipo di problema, con una faccia tosta degna di andare al governo, viene ribaltato da una recente campagna pubblicitaria intenzionata a rifilare telefonini cellulari dalla TIM a chiunque, dai poppanti ai cari estinti. L'Aquila di Ligonchio, al secolo Iva Zanicchi, si sa, non canta più come una volta, i suoi anni più belli, per ricordare la sua prima canzone di successo, risalgono al 1965 e l'ultimo festival di Sanremo vinto è quello del 74. Da un bel po' di anni l'Aquila di Ligonchio è stata riciclata dalla macchina berlusconiana in una sorta di divinità del libero mercato che, se interrogata dai suoi fedeli, può solo rispondere in due modi: o che il prezzo è giusto, o il suo contrario. Si è puntato su di lei dunque per investire di equità e di convenienza le comunicazioni telefoniche tramite cellulare e soprattutto si è puntato su di lei per ordire un repellente complotto ideologico a danno degli improvvidi acquirenti. Si sa che qualche prezzo di merce in Italia è dichiarato con la cosiddetta imposta di valore aggiunto inclusa, come è il caso dei libri, o con la cosiddetta imposta di valore aggiunto esclusa, come è per l'appunto il caso delle tariffe telefoniche. Calcolare il costo di una telefonata senza l'imposta di valore aggiunto è, insomma, come calcolare il costo di un pranzo al ristorante senza il coperto, grosso modo è così. Che questa imposta, secondo la nota legge, che fatto l'acronimo è trovato l'inganno, che questa imposta sia chiamata familiarmente IVA, IVA dai più, ha convinto quelli della TIM che quel pochissimo che rimaneva dell'Aquila di Ligonchio facesse proprio al caso loro. Sia nello spot televisivo che nei manifesti, infatti, IVA nel senso di Zanicchi finisce con l'interpretare proprio la parte dell'IVA nel senso di imposta. Un argano la rapisce in cielo nel filmato e una mano aperta la tiene a bada nel manifesto murale. Si sente risuonare il grido IVA esclusa e la si vede rifiutata, come ci venisse elargita una rassicurazione confortevole, come non fossimo destinatari della notizia che dovremmo comunque pagare di più di quel che ci è stato detto, ma fossimo i beneficiati di un uzzolo particolarmente favorevole del destino. Il tono e i modi non sono più quelli del sotterfugio, del sussurro indistinguibile, dello scritto in piccolo piccolo, ma sono quelli dell'ostentazione gioiosa, come se il fatto che l'IVA sia ancora esclusa dal prezzo che ci è stato comunicato sia una conquista sociale, l'avvento di un diritto per il quale, sputando lacrime e sangue, abbiamo lottato per generazioni. In materia di comunicazioni persuasorie si tratta di una sostanziale innovazione nella continuità di una consolidata tradizione. Continuano a mettertelo in quel posto, ma adesso con fierezza se ne vantano.